lei fuma, Alessandro? Non fumo, non, cioè, l'unica cosa che bevo è un po' il caffè, queste cose qui. Beh, ma il caffè fa bene, professor Cicero, vero? Sì, confermo. Ecco, quanto però vento? Allora, ma quante ne beve, Alessandro? 10-12 al giorno, l'ultimo a mezzanotte. Allora, lì, allora lì passa il abbiamo un tantino Cicero. Superato il limite, forse. 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Come si bella cavalla stu camello col vino, la trago la cosa bandi un archile. Quasi curioso mentre scava stu portu si scorda della non è cosa che ho padroni non c'è sta. Alla la la, ma chi t'ha fatto fa? Sì, ce li immaginiamo così in sella ai loro cammelli, come ce li consegna la tradizione, i tre re magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che portano i loro doni a Gesù Bambino. Naturalmente oro, incenso e mirra. Siamo in diretta anche nel giorno dell'Epifania, qui a Cuore e Denari vi auguriamo una buona festa e speriamo per voi tutti che concludiate in bellezza questo periodo che speriamo vi abbia portato un po' di relax e di serenità nelle vostre famiglie. Portavano, dicevamo, oro, incenso e mirra i re magi, di certo non il petrolio di cui canta Renato Carosone in questa canzone. Oggi però noi un'occhiata la daremo al petrolio e vedremo in apertura cosa sta succedendo sui mercati delle materie prime all'inizio di questo 2015. In realtà, lo sapete bene perché lo raccontiamo ogni giorno, abbiamo una tendenza molto chiara sul greggio da settimane. Le quotazioni sono in discesa fortissima, abbiamo toccato proprio poco fa un nuovo record al minimo e abbiamo visto come i cali di queste ultime ore, insieme anche ad altri temi naturalmente, siano stati la ragione del nuovo fortissimo calo delle borse ieri. Lo abbiamo appunto detto quanto è stato profondo questo ribasso dei listini internazionali. Almeno qui in Italia non ci muoviamo sui cammelli, però siamo in gran parte automobilisti. Allora, noi oggi cercheremo anche di capire cosa devono aspettarsi sul fronte dei trasporti quest'anno i consumatori. Parleremo del prezzo della benzina, quindi da cui ci si aspetta un po' di tregua, che sta per la verità avendo corso dall'estate scorsa. Parleremo però anche dei costi dell'autostrada, dove invece, esattamente come è successo un anno fa, sono stati varati dei nuovi aumenti, nuovi ritocchi a partire dal 1 gennaio. Su tutti questi argomenti, se volete, potete interagire con noi, iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24, provate a calcolare quanto avete speso nel 2014 per spostarvi in automobile fra benzina, pedaggi, parcheggi. Lasciamo fuori l'assicurazione che sarà sicuramente oggetto di tante altre nostre trasmissioni come spesso accade. Chissà se qualcuno ha preso nota di queste voci di spesa, proviamo a confrontarle e poi potremo iniziare un bel diario per il 2015 per capire se riusciremo a risparmiare qualcosa. E quindi poi ci daremo appuntamento fra un anno, alla prossima Befana, quella del 2016. A proposito di Befana, nella calza qualcuno di voi avrà trovato il carbone, quello un po' zuccherino di cui abbiamo parlato ieri con la nostra nutrizionista. Qualcun altro avrà trovato i sintomi di un'antipatica influenza. Siamo infatti ufficialmente entrati nella fase iniziale di diffusione dell'influenza stagionale. Nel corso delle vacanze, sentite qua che cifre, si sono ammalati almeno 100.000 bambini sotto i 5 anni, ma attenzione perché il picco deve ancora arrivare. Io sto tenendo duro, nonostante la gola sembri una grattugia da giorni. Nella seconda parte del programma, insieme al nostro esperto, impareremo a capire quali sono i rimedi più efficaci per prevenire febbre alta, naso che cola, sensazione di spossatezza e malessere generale. 800 24 00 24, utilizzate il numero verde anche per raccontarci quali sono i vostri rimedi della nonna per cercare di sfuggire o, quando arriva, di affrontare l'influenza stagionale. Come petrolio tu rimani su di me, ti sento scorrere oro nero e il petrolio non lo portavano i re magi, ma oggi lo si può sicuramente considerare prezioso? Beh, questo è un concetto al quale dobbiamo mettere un punto di domanda, perché, come ci spiegherà anche il nostro esperto, il prezzo scende perché c'è tanto prodotto in circolazione, quindi forse non va considerato così prezioso, almeno in questa fase. Buongiorno e buon anno Maurizio Mazziero, analista finanziario, Mazziero Research, uno dei più grandi esperti italiani di commodities, di materie prime, benvenuto. Ma oggi più che esperto mi sento un po' remaggio, comunque buongiorno a te. In che veste si sente? Sì, Nicoletta non c'è, quindi porterò io i saluti alla mia amica che torna domani al timone insieme a me di Cuore Denari, Mazziero. Comunque grazie lo stesso del saluto. Lei si sente più Gaspare, Melchiorro, Baldassarre? Ma un po' tutti e tre, diciamo, un po' tutti e tre messi insieme. Giochiamo un po' con la tradizione, naturalmente prendiamo in esame tre doni dei re magi di Cuore e Denari: la mirra e l'incenso. Non so se lei ne sa qualcosa su come vanno sui mercati, ma in realtà sa molto bene come vanno le quotazioni del petrolio. Poi parleremo anche, se ce la facciamo, di oro, magari, perché le quotazioni sono molto interessanti in questo periodo. Se ce la facciamo, anche di un altro bel metallo che è l'argento, e magari anche quello poteva essere portato in dono a Gesù Bambino tanti anni fa in questa giornata. Allora andiamo al petrolio. Mazziero, abbiamo visto proprio poco fa, ho fatto l'aggiornamento nel corso del giornale radio, nuovi picchi al minimo toccati sia dal WTI che il greggio di riferimento americano. Ribadisco le cifre raggiunte proprio qualche istante fa: $48.49 al barile. Ieri si è scivolati sotto la soglia dei $50. Il Brent del Mare del Nord è generalmente poco distanziato dal greggio americano, stamattina siamo a $51.23 al barile. Allora, leggiamo tanti commenti stamattina su tutti i giornali, perché ieri il calo repentino, l'ennesimo calo molto forte del petrolio, è stata una delle cause determinanti del profondo ribasso di borsa, anche se poi c'è tutta la crisi greca, naturalmente, che fa da sfondo e da analizzare attentamente. Però i doni per l'Italia da mini euro e greggio, pila doppia velocità, sconti alle famiglie, questo è quanto titola oggi un'analisi di Repubblica. Sul Sole 24 Ore: petrolio ai minimi da 5 anni, il super dollaro affossa i prezzi, difficile a breve e medio termine attendersi un'inversione di tendenza. Poi c'è l'analisi sulla Stampa sulla benzina, della quale ci occuperemo tra poco. Cominciamo a scattare una fotografia sul petrolio. Mazziero, che succede? Ci faccia una sintesi. Ah, dunque, se il 2014 non è stato l'anno del petrolio, probabilmente anche il 2015 non lo sarà. Magari sarà l'anno dell'agricoltura, ma questo, se lo riterrà, potremo esplorarlo in una nuova puntata. Che cosa sta accadendo? Ebbene, lo scenario è estremamente ribassista da quando l'Arabia Saudita e più in generale l'OPEC hanno dichiarato che non vogliono più adeguare la produzione alla domanda. E da quel momento il mercato è estremamente sensibile a tutti i fattori negativi, quali ad esempio i cali della domanda, Cina, Europa che non crescono, le scorte che in particolare negli Stati Uniti sono sui massimi livelli, ma questo è un aspetto abbastanza ciclico in questa fase dell'anno. Il problema è che c'è anche un altro lato della medaglia che al momento i mercati, a mio parere, non stanno adeguatamente valutando, ed è una diminuzione dell'offerta che presto si potrebbe far sentire, ed è dovuto a una diminuzione dei pozzi di estrazione in attività negli Stati Uniti, quei pozzi che frantumano le rocce di scisto e quindi ricavano lo shale gas, lo shale oil. Esattamente. Ecco, si pensi che nelle ultime 4 settimane i pozzi in attività sono diminuiti del 5% negli Stati Uniti. E poi, esattamente come successe nel 2009, c'è l'immagazzinamento su navi petrolifere per consegne future nel tempo. Cioè, cosa succede? Gli operatori comprano oggi a pronti il petrolio, lo stivano in navi petrolifere che a questo punto, con il calo dei carburanti, costano anche meno il loro noleggio giornaliero, e lo consegnano fra 6 o 12 mesi. Si pensi che fra 6 mesi il petrolio è già più alto di $3.5 al barile e fra 12 mesi è già più alto di $8 al barile. Tutto questo corrisponde chiaramente poi a una diminuzione dell'offerta. In qualche modo il mercato si adegua a questa nuova situazione. È molto interessante il ragionamento che ha fatto sui paesi che aderiscono al cartello dell'OPEC, che non intendono adeguare la produzione alla domanda, quindi al nuovo scenario. C'è da capire quanto ha senso procrastinare questo atteggiamento. Però le volevo chiedere invece un'altra curiosità prima magari di commentare questo aspetto, perché ci ha molto colpito come da giugno il prezzo del petrolio appunto sia caduto in discesa che possiamo definire davvero verticale, ma in realtà il corso del greggio mazziero ci insegna che solitamente, per quello che riguarda appunto questa materia, avviene sempre così. Io ricordo quello che è successo fra il 2008 e il 2009, un top di prezzo è stato toccato proprio nel luglio del 2008 a $147 al barile, nel gennaio del 2009, quindi diciamo 7 mesi dopo, era a 34, per cui non è la prima volta che assistiamo a queste montagne russe circoscritte a pochi mesi di tempo. No, infatti questi aspetti sono abbastanza ciclici, si verificano e molto spesso partono da un innesco che ha origini lontane. E poi dopodiché il problema è che l'atteggiamento emulativo degli operatori porta ad ampliare, diciamo, queste forti escursioni di prezzo. Mazziero, che relazione c'è tra il calo del petrolio che sta continuando, l'andamento della borsa e l'andamento del mercato valutario? Ma allora, in teoria per la borsa dovrebbe essere un fattore positivo, nel senso che le aziende avranno minori costi per far funzionare i loro macchinari e quindi anche il PIL dovrebbe beneficiare. Quindi in realtà con i mercati azionari non si relaziona molto, se non che nei mercati azionari vi sono quotate anche molte aziende che sono proprio le aziende energetiche e che pesano molto negli indici. Ad esempio, se pensiamo a Eni, nel nostro indice FTSE MIB pesa per un 15%, quindi di fatto il prezzo del petrolio trascina anche la nostra borsa al ribasso. Poi dopodiché c'è un aspetto che è senz'altro quello valutario. E ci può spiegare appunto un po' meglio qual è la relazione fra l'andamento dei prezzi del petrolio e l'andamento del mercato delle valute? Quello che notiamo nettamente in questi giorni è questo rafforzamento del dollaro sull'euro molto marcato. Sì, infatti, allora intanto le correlazioni vanno e vengono, però è anche chiaro che tutte le materie prime sono generalmente quotate in dollari. Ecco, noi abbiamo a questo punto che effettivamente c'è una componente nel ribasso del petrolio, c'è una componente del rafforzamento del dollaro. Il dollaro si è rafforzato ad esempio rispetto all'euro dall'8 maggio del 2014, a cui era vicino agli 1,40, ha perso qualcosa come il 20%. Se andiamo invece a vedere il petrolio, ecco che il petrolio dal 23 giugno ha perso qualcosa come un 50%, insomma. Mazziero, ci faccia un po' una previsione, anche se non fa il re magio, si travesta un po' da mago di altro tipo, legga la sua sfera di cristallo, ci racconti che cosa dobbiamo aspettarci sul fronte petrolifero da qui magari alla primavera. Mi rendo conto che sono scenari di difficile previsione, perché abbiamo anche tanti altri fattori che stanno determinando e condizionando l'andamento generale dei mercati finanziari, e sappiamo bene che sono anche spesso tutti intimamente legati, però ci dica un po' che cosa dobbiamo aspettarci per capire anche un po' come muoverci per chi volesse puntare su questo tema come materia di investimento, diciamo, come tema di investimento. Ma tutte le stime sono in revisione in questo momento, anche perché effettivamente ci sono una serie di fattori, quali stavamo parlando prima appunto dell'aspetto cinese, dell'aspetto europeo. Quindi io penso che qui stiamo veramente però andando a degli eccessi che sono insostenibili, quindi mi aspetto perlomeno un rimbalzo e poi dopodiché un stazionamento, un lungo stazionamento per anche 6 mesi, quindi fino al secondo semestre del 2015, in una zona di prezzo che è tra i 50 e i $60. Quindi diciamo che siamo un po' intorno ai livelli di adesso, anche se adesso siamo nella parte minima di questa forchetta che lei ha indicato. Andiamo invece all'oro, non ne parliamo tanto spesso, però anche l'oro ha visto scendere in maniera abbastanza repentina le sue quotazioni in tempi recenti. Come sta andando in queste settimane, Mazziero? Sì, l'oro nel 2014, di fatto il 2014 è stato un anno inutile nel senso, non inutile, ma inutile nel senso che le quotazioni hanno chiuso più o meno dove avevano cominciato l'anno. Neutrale. Quello che possiamo vedere è che, ad esempio, ecco qui la correlazione del rafforzamento del dollaro non ha funzionato. Perché? Perché si trova abbastanza stabile, intorno a $1,200 l'oncia, e quindi in qualche modo anche la maggior parte degli analisti analisti delle case di investimento blasonate si limitano a dire che le quotazioni del 2015 non brilleranno, ma non si spingono però a ipotizzare degli scenari nefasti. Mm. Le quotazioni dell'oro che non brilleranno è un concetto veramente interessante. Abbiamo qualcosa di interessante da raccontare anche sull'argento, Mazziero, tanto per completare un po' l'analisi di quelle materie prime che possono essere ricondotte ai doni dei Re Magi, così abbiamo un po' scherzato stamattina con questa immagine. Ecco, vorrei solo far sì. presente che ad esempio l'oro è stata la seconda, se lo consideriamo una valuta, è stata la valuta più forte dopo il dollaro, perché tutte le altre si sono svalutate. Mm. Quindi diciamo è stata comunque una protezione e ci potrebbero essere delle opportunità invece nel 2015 per le aziende aurifere, però questo è un capitolo troppo vasto, magari gli ascoltatori che saranno curiosi possono trovare nel sito Mazziero Research maggiori dettagli. Senz'altro. Ecco, però per arrivare all'argento, l'argento è un metallo anche industriale, non viene più utilizzato per le arti fotografiche, ormai siamo tutti dotati delle fotocamere digitali, ma trova grande impiego nell'elettronica e nei pannelli fotovoltaici. Ebbene, che cosa vediamo? Che in questo momento è molto sottovalutato rispetto all'oro, nel senso che nelle epoche passate il rapporto tra argento ed oro era 1 a 17, nelle medie più recenti, quindi all'incirca di un secolo fa, sono da 1 a 25, oggi ci troviamo a 1,74. Ebbene, l'argento amplifica le escursioni dell'oro, ad esempio ieri l'oro è cresciuto dell'1,5% e l'argento è cresciuto del 2,7%. Ah. Che cosa possiamo pensare? Molto probabilmente non partirà l'argento da solo, nel momento in cui i mercati dovessero andare in panico per una serie di fattori sarà l'oro a partire, si trascinerà l'argento e poi molto probabilmente l'argento potrà davvero avere delle spinte percentuali maggiori e quindi riportare ai rapporti di 1 a 40, 1 a 50. Quindi per chi fosse interessato al mercato delle materie prime come tema di investimento, come dicevo, occhio ai fermenti di mercato, perché naturalmente fanno ripartire l'oro e con esso l'argento, ma con movimenti amplificati. Ecco, sintetizzato così, Mazziero, naturalmente la convochiamo al più presto anche per tutto il tema delle materie prime agricole, che è un tema di grande interesse anche per Nicoletta Carbone, per cui si tenga pronto nelle prossime settimane. Valuteremo anche questa relazione fra quotazioni e dieta, perché è sempre interessante. Grazie intanto per essere stato con noi e buona giornata e buona Befana. Grazie, anche a presto. Buona giornata. Entriamo nel vivo della pagina di Denari di oggi, che dedichiamo ai costi che devono sostenere gli automobilisti. Saluto subito i nostri ospiti e poi sentiremo immediatamente i nostri ascoltatori, perché quando parliamo di carburante, di prezzo dei trasporti a 360 gradi, chiaramente è un tema talmente trasversale che tutti subito si candidano a dire la loro all'800 24 00 24. Buongiorno e buon anno a Martino Landi, presidente di FAIB Confesercenti, parliamo dei distributori di benzina, appunto, di questa organizzazione del commercio. Landi, buongiorno e buon anno. Buongiorno, grazie, buongiorno anche a voi, buon anno a tutti. E buongiorno e buon anno anche a Furio Truzzi, presidente di As Utenti, un'associazione dei consumatori particolarmente preparata sui temi del trasporto. Ormai per Furio Truzzi è un'abitudine intervenire all'inizio dell'anno, perché se non ricordo male, Truzzi, anche lo scorso anno ci siamo ritrovati qua più o meno in questa data a commentare i rincari autostradali dello scorso anno, è così? Mi ricordo. Auguri, è bello risentirci, anche se il tema è dolente. E infatti. Allora, vi faccio subito sentire un paio di ascoltatori, così vi do materiale da commentare, oltre naturalmente alle domande che abbiamo preparato per voi. Domenico da Cesena, buongiorno, benvenuto all'800 24 00 24 e buon anno. Buona giornata anche a voi e buon anno. Ci dica tutto. Dunque, io volevo chiedere solamente questo. Siccome io ho lavorato nel mondo dell'autotrasporto per più di 30 anni, quindi i carburanti ne ho consumato. Volevo dire questo. Quando c'è stata quella crisi del petrolio che ha toccato il greggio circa $150, $153, una roba del genere, i carburanti alla pompa costavano in media 1,50. Oggi che il greggio costa un terzo in meno, voglio dire circa sui $50, forse qualcosa di meno, io proprio stamattina davanti alla pompa ho visto 1,40, quelli proprio a quelli liberi che sono i più bassi come costi, 1,40, cioè la benzina, 1,30 il gasolio. Come mai c'è questa disparità, nel senso che cala un terzo il greggio, però non si neanche la metà imposto per gli ascoltatori? consumatore, per il consumatore. Per il consumatore. Questo è un paradosso da risolvere. Guardi, non Domenico, quante volte abbiamo sentito fare questa domanda, quante volte l'abbiamo fatta, non solo alle associazioni dei consumatori, non certo ai benzinai che in realtà sono molto penalizzati da questa situazione. L'abbiamo rivolta questa domanda molto spesso all'industria petrolifera, che ci racconta un po' come vanno le quotazioni del greggio sui mercati internazionali, ci spiegano delle dinamiche che noi non comprendiamo fino in fondo, i plaz e quant'altro, tutti i parametri di riferimento appunto che determinano poi il prezzo finale alla pompa. Detto questo, Landi, anche lei immagino che non solo da Radio 24, ma chissà in quanti le hanno chiesto un miliardo di volte perché avviene questo, e cioè quando il petrolio riprende a salire, l'adeguamento alla pompa di benzina è immediato, fulmineo, istantaneo, al rialzo. Quando invece deve fare il movimento contrario, adesso da 6 mesi stiamo vedendo la discesa. Le quotazioni per noi automobilisti sono certamente più convenienti, ma è tutto molto più lento. Lei tutte le volte questa storia come la spiega? A chi gliela chiede? Come ha detto lei, è una domanda che ricorre sempre in qualsiasi occasione quando parliamo di prezzi dei carburanti, di benzina e gasolio. È sicuramente vero che gli automobilisti e tutti noi percepiamo una diminuzione a rilento quando le quotazioni vanno a ribasso, e percepiamo e anche tocchiamo con mano invece un adeguamento a rialzo al momento in cui la quotazione inverte la tendenza. L'affermazione dell'ascoltatore è corretta, però io mi sento di dovere di dire che quando la quotazione del barile oscillava, era arrivata fino a $150, era sopra, ben sopra i 2 euro il prezzo. Benzina, come lei si ricorderà, sì. Venne fuori quella polemica, giusta polemica, che gli italiani erano costretti a pagare la benzina oltre 2 euro. Sì. Cioè la quotazione della benzina e del gasolio si è avvicinata e ha superato anche i 2 euro al litro. Oggi è vero anche che la quotazione del greggio è esattamente un terzo più, cioè 2/3 più bassa di allora. Oggi sulla rete carburanti registriamo dei prezzi medi, perché noi dobbiamo sempre parlare di prezzi medi, che oscillano intorno a 1,5 euro per la benzina e intorno a 1,4 euro sul gasolio. Quindi la diminuzione in questo senso c'è stata. Noi non dobbiamo dimenticarci che sui prezzi delle benzine e del gasolio c'è una tassa, che è l'accisa più l'IVA, e purtroppo quella non va in proporzione alla quotazione del greggio. Quella è una tassa, è un'imposta fissa che oggi rappresenta esattamente il 65% del costo prezzo finale del prodotto. Infatti. Quindi al di là della quotazione del greggio può andare anche a $10 al barile, ma noi gli italiani devono per forza pagare 1 euro, che esattamente corrisponde a circa 1 euro, che è un costo fisso che non è legato e proporzionato alle quotazioni, e quello è un costo che ogni automobilista, quando paga un litro di benzina, è 1 euro che dà allo Stato. Esatto, e quindi insomma, anche se compagnie petrolifere ne benzinai meno al settore. Quindi se il prezzo al barile addirittura paradossalmente si azzerasse completamente, ci sarebbe sempre una quota appunto che al rifornimento il consumatore finale pagherebbe, rappresentato da questa tassazione. C'è la buona notizia per cui quest'anno, nonostante le famose clausole di salvaguardia, il governo ha deciso che sterilizzerà per il 2015 ogni possibile aumento o introduzione di nuove accise sul carburante. Questa è una buona notizia, ne parleremo tra poco, dopo naturalmente la borsa, e poi vi anticipo già che Giovanni della provincia di Roma invece introduce, e lo commenteremo con Furio Truzzi, l'argomento sempre spinoso dell'aumento delle tariffe autostradali. Cuore e denari. Cosa ci fai? Scusa, posso salire? No, io non credo proprio che sia una buona idea, perché ho un terribile raffreddore. Lo senti o no? Sì. Certo che lo senti. Senti, continua a starnutire, non sono granché sveglia. sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre. Meg Ryan in C'è posta per te, influenzatissima, prende l'echinacea, come Nicoletta Carbone spesso suggerisce, ma febbre, mal di schiena, nausea, sensazione di avere le ossa rotte. Siete uno dei 450.000 italiani che, secondo Influnet, rete di sorveglianza della sindrome influenzale, durante queste vacanze di Natale è rimasto a letto, oppure avete scogitato dei piccoli ma efficaci trucchetti per sfuggire all'influenza. Ci siete riuscite? E riusciti? Fate scorta di arance, per esempio, io evidentemente con questa gola ne ho mangiate poche. Vi barricate in casa preferendo 2-3 giorni di riposo assoluto. Insieme al dottor Luca Avoledo, naturopata, a partire dalle 12 scopriremo come salvarci da questa ondata influenzale che raggiungerà il picco proprio nei prossimi giorni. L'autostrada è ancora lunga, chi lo sa se arriverò con il cuore già in riserva e il motore. Torniamo su strade e autostrade, tra l'altro proprio in queste ore molti ritorneranno dalla montagna dove hanno fatto la loro bella settimana bianca e probabilmente dovranno fare il pieno con qualche buona sorpresa per quello che riguarda il costo del rifornimento, con qualche brutta sorpresa per quello che riguarda invece le tratte autostradali da percorrere. Claudio su Twitter ci scrive: Cattolica Bologna, 8,90 euro. Se non è un furto, è un'estorsione. Claudio, che cosa le dobbiamo dire? Pensiamo che ha ragione. Sentiamo Giovanni dalla provincia di Roma e poi andiamo appunto alla fotografia. In questo caso, dopo quella che abbiamo fatto prima sul prezzo del petrolio, le dinamiche internazionali, alla fotografia invece dei rincari autostradali. Giovanni, benvenuto, buon anno. Buongiorno, buon anno. Ci dica. Volevo far riferimento alla precedente riferimento alla truffa e via dicendo. Nello stesso tempo gli interlocutori lì presenti dicono sempre che tutti hanno ragione e loro fanno i loro comodi. Mi trovo a passare adesso sulla Roma Civitavecchia e i caselli con le carte non sono abilitate, però c'è il cartello dell'avviso dell'aumento del pedaggio autostradale, pertanto ritengo che la truffa sia presente a tutti gli effetti. Nessuno la vede, compreso il ministro competente, che autorizza annualmente che gli stessi sfruttatori degli automobilisti ogni anno all'inizio dell'anno inseriscano un proprio aumento in una nazione che ritengono loro debba ancora vedere appena appena la luce del fondo la lucina che si doveva accendere ma che ancora è completamente spenta, quindi il tunnel è buio ancora, però abilitano questi grossi truffatori delle autostrade a poter aumentare. Non mi faccia querelare proprio all'inizio dell'anno, Giovanni. Detto questo, senta, quanto le costa questa tratta? Quanto è aumentata? Questo quanto sia aumentata non glielo so dire, però non ho pagato perché la carta, asseriscono che la carta non sia leggibile. E quindi ha dovuto stampare la certificazione del transito e pagare in un secondo momento. Che cosa farà? Ma sono loro che non sono leggibili, quindi sono completamente al buio. E mi hanno rilasciato un scontrino che io entro 15 giorni deve pagare. Sì, è successo anche a me qualche volta, Giovanni, appunto. Però partiamo con ordine e andiamo a questi aumenti per i pedaggi autostradali. Furio Truzzi, ci illumini un po' su cosa sta cambiando, quanto sono aumentati, quali sono le tratte che diventeranno più particolarmente costose per gli automobilisti. Poi parleremo anche però del fatto che molta manutenzione autostradale non verrà fatta prossimamente, per cui ancora di più questi aumenti ci fanno arrabbiare, perché se appunto tutte queste tratte autostradali fossero tenute bene saremmo anche tutti contenti. Ci dica un po' che cosa sta succedendo. Succede questo brutto aumento che in parte, figuriamoci, è dovuto all'inflazione. Non c'è più la scala mobile, non ci sono più automatismi, uno dei pochi che rimane in Italia è quello degli aumenti autostradali, che pesa per un terzo dell'importo. Ma quale inflazione, tanti... peraltro è curioso, perché se l'aumento medio per l'intera rete autostradale è di circa l'1,3%, non abbiamo certo questo livello di inflazione in Italia, perché anzi stiamo andando al contrario. Diciamo che sono i calcoli contenuti negli accordi di concessione che già l'anno scorso, se si ricorda, avevamo chiesto con forza al ministro Lupi di rivedere, era anche intervenuto un direttore, ma ne è passato un anno e siamo ancora dei meccanismi astrusi. Poi diciamo l'altro cosa che non va, lo dice lo stesso presidente dell'antitrust Petruzzella, che il nostro sistema autostradale è un sistema assolutamente poco competitivo, ma non solo lui, c'è addirittura la Commissione europea che ha avviato ad ottobre una procedura di infrazione proprio perché non si stanno rispettando le gare. Insomma, un settore da mettere fortemente sotto controllo, e nonostante ciò ci troviamo appunto quest'anno a commentare come ancora questi aumenti hanno riguardato nella generalità quasi tutti i settori autostradali, ecco, pochissimi non li hanno applicati. Ricordo l'Asticuneo che non ha applicato l'aumento, le centro padane, ma l'autostrada dei Fiori, la Milano-Serravalle, autostrade per l'Italia, insomma una litania fino giù al sud e al nord di aumenti che c'è e purtroppo non corrisponde, come lei anticipava, a un effettivo intervento in materia di sicurezza. Io ho qua sotto mano il bilancio 2013 della società Autostrade, sono aumentati gli utili di esercizio proprio da pedaggio da 2.782 milioni a 2.816 milioni di euro e sono diminuiti gli investimenti sulla rete da 1.195 a 795, quindi 400 milioni in meno di investimenti, 30 milioni in più di utili da pedaggio. C'è qualcosa che non va, ecco, tutto il sistema di controllo, e c'è un grande dibattito anche in Parlamento, va assolutamente rivisto. E peraltro c'è anche questa notizia molto curiosa che abbiamo trovato ieri, l'ha trovata Marco Lombardo, c'è un decreto del 6 ottobre scorso del Ministero per le Infrastrutture che indica nuove misure delle barriere spartitraffico e di quelle laterali, e proprio con una mossa a sorpresa che è stata forse realizzata nello spirito di una spending review, al contrario, quindi guardrail saranno ridotti su circa 2000 km di autostrada di una trentina di centimetri di altezza, avranno una resistenza minore a contenere l'urto, in special modo degli auto articolari, e costeranno quindi fino al 40% in meno. I concessionari così risparmieranno milioni, naturalmente a tutto svantaggio della sicurezza di chi transita su queste tratte. Truzzi. È assolutamente una vergogna negativa, ecco, uniformarci all'Europa o ai trattati transatlantici in peggio è un po' lo sport di questo paese, che in alcuni casi sulla sicurezza alimentare e quella autostradale rappresentava un'eccellenza, come i dati che lei citava dimostrano. Ecco, c'è un danno e una beffa, un danno perché ovviamente i guardrail saranno meno sicuri, sapendo che c'è un traffico pesante di molto superiore al resto d'Europa nel nostro paese, e una beffa perché è un ulteriore regalo economico alle concessionarie che da questo punto di vista risparmieranno tra virgolette nella manutenzione, poi magari l'anno prossimo ci chiederanno di nuovo lo stesso aumento. Insomma, assolutamente le cose così non vanno. Quello che possiamo fare noi è assolutamente far intervenire di nuovo le autorità garanti, non solo l'antitrust, ma quelle dei trasporti, perché siano pesanti e conseguenti in quello che tutti noi ci rendiamo conto, ecco, senza essere degli scienziati. Intanto c'è qualche ascoltatore che commenta: è vero, ormai costa di più l'autostrada del carburante. A24 Roma Est, uscita Vicovaro Mandera, 22 km, 4,20 euro. E poi c'è chi chiede perché sui raccordi anulari di Roma non c'è pedaggio e sulle tangenziali di Milano invece sì. Andrei invece ad un caso segnalato da Vittorio dalla provincia di Varese, perché Vittorio ce lo stanno segnalando molti altri ascoltatori. A quale tratta si riferisce e quanto costa? Vittorio, benvenuto. Buongiorno, mi riferisco alla tratta Aosta-Courmayeur, che è la più cara d'Italia. La mia curiosità, come mai? Io sono il corrente che se la complessità della vostra strada aumentano anche i pedaggi, questo è chiaro, però c'è una sproporzione enorme comunque tra altre autostrade oppure tratti simili, tratti di lunghezza medesima. Quanti chilometri sono, tra l'altro? Sono una 35 al massimo. E quanto costa? Adesso io credo che costi intorno ai 10 euro, una cosa del genere. Grazie Vittorio. Milano-Cormaiere invece fa un tratto diverso, ma sempre per raggiungere la medesima località. Un altro ascoltatore ci racconta andata e ritorno oltre 60 euro. Truzzi è documentato su questa tratta e come mai costa così tanto? Beh, sono tratte che appartengono a vecchie convenzioni che poi rimangono e per il loro, come dire, particolare situazione, non sfugge a nessuno che andare verso Cummaiore, poi c'è il passo obbligato del Monte Bianco, ha dei costi infiniti, come la Savona Ventimiglia, l'autostrada dei fiori, no? Che fino a finale è sulla tratta Autostrade per l'Italia, poi diventa Autostrada dei Fiori e anch'esso carissimo, il pedaggio è fuori da qualsiasi logica. D'altronde, come quando ci sono dei monopoli naturali, è chiaro che è proprio quello, la mancanza di concorrenza del nostro sistema e poi una politica tariffaria che premi il cosiddetto cap pricing, cioè se uno investe dei soldi per migliorare effettivamente la rete può aumentare la tariffa, ma in questo stato dove francamente le problematiche, come dicevo, rappresentano addirittura della diminuzione degli investimenti, io diminuirei le tariffe. Guardi, è già tanto che non dicano al termine del percorso grazie per aver viaggiato su questo tratto autostradale. Come fa? Adesso se la prenderanno con me, ma non importa. Trenitalia, quando uno termina il suo viaggio, scende e c'è la vocina che dice grazie per aver viaggiato, per aver scelto Trenitalia, come se avessimo tante altre alternative per viaggiare su certe percorrenze nel nostro paese, perché sappiamo come stanno andando le cose ad Italo. E con questa polemica mi fermo per un attimo e sentiamo proprio cosa sta succedendo adesso sulle strade e le autostrade italiane. Cuore e denari. Che guaio. Landi, sente che ci sono anche delle canzoni dedicate a voi, perché siamo molto affezionati a questa categoria, ce ne dobbiamo naturalmente servire sempre, a volte ci lega anche un rapporto di fiducia con il nostro benzinaio preferito. L'ho raccontato spesso, ne ho uno vicino a casa con il quale mi relaziono molto bene, perché poi oltre al fatto di fare naturalmente il rifornimento, il prezzo è particolarmente competitivo, devo dire, in questo momento. Poi quando si fa amicizia ti dà magari anche un'occhiata all'olio, ti pulisce i vetri, insomma c'è tutta una relazione che si stringe con questa figura professionale, che viene sempre un po' anche bastonata impropriamente a causa di questo prezzo della benzina, che quando scende il petrolio non scende in maniera altrettanto repentina. Però insomma dall'estate scorsa in realtà abbiamo visto come fare un pieno sia molto più conveniente rispetto ad un anno fa. Però questa mattina un pezzo sulla stampa di Luigi Grassia dice: basterebbe un po' più di coraggio in più, non guasterebbe effettivamente. Si potrebbe forse intervenire un po' meglio su tutta la partita delle accise, però questa sterilizzazione di quest'anno, Landi, è una buona notizia per voi e per tutti gli automobilisti. Ma sicuramente sì, c'è un'inversione di tendenza, perlomeno abbiamo, c'è l'affermazione di un principio: mai prima di oggi si era registrato che un'imposta, un'accisa, una parte di accisa, anche se piccola, legata a temporaneamente per degli eventi, si arrivasse alla scadenza naturale e venisse ritirata. Lei si ricorderà, su questo prodotto gravano addirittura le accise del Vajont, accise, cose che della guerra in Abissinia erano state inserite, erano inserite in quel momento per far fronte a degli eventi straordinari e che non sono poi stati mai ritirati. Oggi per la prima volta nella storia del paese italiano un'accisa legata a un evento che andava a finanziare questo evento con lo scadenza 31/12/2014, questa accisa è stata tolta. Ripeto, è la prima volta, speriamo che non sia l'ultima. Esatto, e quindi se si vuole si può fare. Poi ha senso una misura straordinaria come per esempio, appunto, come diceva lei, quelle che sono state varate in tempi recenti per affrontare per esempio un'emergenza terremoto come quelle che esatto, sì, ma effettivamente esatto, cancelliamo quelle di 50, 60, 70 anni fa. Mi sembra ovvio. Io poi le volevo anche, come dire, riferire rispetto a quello che lei giustamente ha detto, la figura del benzinaio. Noi riteniamo che sia la nostra figura sia non solo una figura di venditore di un prodotto, soprattutto noi vendiamo le tasse purtroppo, ma siamo anche una figura, come dire, di una figura che fa un servizio sociale. Quanti automobilisti si fermano sulle stazioni di servizio a chiedere informazioni? Cioè la garanzia che dà un gestore su un impianto di benzina. Purtroppo oggi stiamo registrando, mi auguro che sia anche qua che si registri un'inversione di tendenza, riportare il benzinaio sugli impianti e non abbandonarli come magari vuole l'Europa a un'automazione spinta e una settizzazione che nel paese, nel nostro paese, per come siamo messi e per le abitudini, gli italiani apprezzano molto il servizio, apprezzano molto anche il contatto con l'operatore. Quindi senta Landi, però che... c'è, a sempre a proposito di tratte autostradali, mi spiega per quale motivo se io vado al mio distributore di una determinata insegna molto importante, quello vicino casa, pago per un pieno appunto di diesel, che è la modalità con cui è alimentata la mia auto, 1,38 euro, adesso 1,36 forse stamattina stava. Se invece vado presso la medesima insegna in autostrada costa un bel po' di più, sempre per la questione appunto del monopolio naturale che commentavamo prima? Ma sicuramente, come lei pensa, tutti i prodotti che vengono venduti nella rete autostradale c'è un fee da pagare come alle autostrade, ai concessionari. Lei se pensa non solo alla benzina ma anche al panino che può comprare in autostrada, in un autogrill, il 50% del costo del panino lo dà alla concessionaria che gestisce la tratta. Quindi per le accise, la benzina, il gasolio venduto in autostrada, una parte del costo va a finanziare appunto quel fee che va poi a favorire, a incamerare il concessionario autostradale. Quindi mediamente il costo in autostrada è sempre più caro di quello della rete ordinaria. Allora, perché sì, tutte le aziende fanno delle gare partecipano a delle gare per gestire gli impianti autostradali e chiaramente oggi i costi per accaparrarsi un'area autostradale rispetto alle concessioni magari che sono scadute, le compagnie petrolifere hanno dovuto pagare fior di danari per aggiudicarsi quell'area proprio, e quindi poi quel costo va a deve rientrare sul prezzo finale. Marco da Milano, per poi andare verso la chiusura di questa prima parte della trasmissione, volevo ritornare con Truzzi ad un tema che affrontammo un anno fa, abbiamo perso di vista questa faccenda e adesso la ripeschiamo perché vi ricorderete che un anno fa parlavamo di un bonus per i pendolari e volevamo capire se questa iniziativa, quell'opportunità si era concretizzata, come ricordando appunto come funzionava e chi ha usufruito di questa agevolazioni tariffarie o se si è invece concluso tutto con un insuccesso, come spesso capita per iniziative che magari vengono anche male divulgate per tutti gli utenti finali. Sentiamo però Marco da Milano. Marco, benvenuto. Buongiorno, io volevo tornare un momento sulla questione delle manutenzioni. A me capita da tantissimi anni di fare la Milano-Torino e già da quando sono cominciati i lavori della TAV, a parte che con i soldi della TAV credo che si siano fatti tutti questi sovrappassi faraonici dove passavano e passano due biciclette e un asinello, e non oso pensare alla quantità di soldi buttati via per fare delle cose fantascientifiche, ma poi sulla Milano-Torino continuano da anni e anni e anni a esserci lavori assolutamente inspiegabili. Chiudono da una parte, la riasfaltano, riaprono dall'altra, la riasfaltano. Il risultato è che ci sono dei lunghi pezzi dove ci sono due corsie strettissime ed è molto pericoloso. Guardi Marco, se io sapesse quante volte durante l'anno faccio la A14, una tratta che arriva fino in Puglia per molti chilometri solo di due corsie, quindi quando poi si creano quelle code interminabili in estate sappiamo perché, quanto lavoro si potrebbe dare agli italiani se solo ci si decidesse a rendere moderna la nostra rete infrastrutturale autostradale. Truzzi, un commento sulla segnalazione di Marco da Milano, se vuole, e poi se ci ricorda com'è finita la questione dei bonus per i pendolari. Che dire, Marco rappresenta la stragrande maggioranza di persone che ragiona in modo assolutamente normale, cosa che non succede nemmeno per i bonus. Come dire, in mezza Europa esiste la cosiddetta vignetta che si attacca su dei mezzi e vale come tariffa per tutto l'anno. Da noi, proprio per lenire gli aumenti l'anno scorso, il Ministero si è inventato questo sistema di bonus che scatta dopo il 20° viaggio per il pendolare assiduo nella stessa tratta. Diciamo che si è spiaggiato, a noi non risultano entusiasmi o richieste di conferma. Qualcuno ne ha usufruito, pochissimi, e quello che dicevamo l'anno scorso lo diciamo quest'anno. Ecco, non si può buttare fumo negli occhi con questa formula che interviene per meno dell'1% dei viaggiatori delle autostrade per bilanciare aumenti che appaiono astrusi, anticoncorrenziali e non giustificati in termini di investimenti, come i dati che abbiamo prodotto dimostrano. Però insomma, siccome questo sconto, questo bonus, chiamiamolo come vogliamo, anche se in molti non lo conoscevano e aveva anche una procedura piuttosto complessa per poterlo richiedere, soprattutto bisognava avere un profilo di pendolare molto particolare, siccome è in vigore fino al 31 dicembre 2015, mettiamoci un po' di impegno a fare una richiesta. Allora, io ricordo che bisogna andare sul sito di Telepass o all'ufficio della concessionaria autostradale interessata, definendo il percorso che si utilizza abitualmente, indicando il casello di entrata e quello di uscita. Questo sconto è previsto dai 20 transiti mensili in su. Al di sotto non perdete tempo perché non viene applicato, e questa percentuale di sconto sale progressivamente fino al 20% per chi ne fa da 40 di transiti a 46. È scoraggiante la procedura, Truzzi, oppure è lo sconto che non è tanto interessante? Secondo lei che cosa ha determinato un po' poi l'insuccesso dell'operazione, almeno lo scorso anno? No, ma devo dire, a parte le prime settimane con partenza Stile Italia, poi le questioni sono andate migliorando, quindi non è di per sé la procedura che è ormai entrata nei sistemi informatizzati di tutte le autostrade. Il problema vero è la, come dire, scarsa platea che può usufruire di questo vantaggio. Torno a ripetere, è un beneficio minimo, e comunque quando un beneficio è minimo non è un maleficio e già ce ne viene, però se vogliamo accontentare meno di una mezza persona su 100 che usa l'autostrada, non è questo lo spirito che si richiedeva di fronte ad aumenti che purtroppo permangono in maniera così consistente. Insomma, prevediamo un altro anno quanto meno interessante per gli automobilisti. Un altro tema che dovremo affrontare al più presto è quello delle assicurazioni, per completare un po' la nostra analisi. Intanto, quantomeno accontentiamoci del fatto che i carburanti sono scesi, che si potrebbe fare qualcosa di più. Quindi Renzi, oltre a congelare le accise, metti un po' mano anche a quelle vecchie, quantomeno a quelle veramente scandalose, che non hanno più senso, e diamo veramente un po' di benzina nel portafoglio degli italiani oltre agli 80 euro. euro, perché se già il pieno fosse ancora più conveniente saremmo tutti molto più contenti. Grazie a Martino Landi per essere stato con noi. Buon anno, Presidente, a presto. Grazie anche a voi, grazie, buongiorno. Buon anno e ben ritrovato naturalmente anche a Furio Truzzi. Alla prossima, Presidente, a presto. Grazie Deborah, e sappia bene che sì. Fabio Cerchiai è presidente sia di Unipol Fonsai che di Autostrade per l'Italia. Cuore e denari. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. Oh? I cambiamenti di temperatura. Scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione, no? Scusi, deve andare via facilmente. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento che mi ha toccato sulla bocca. Sono stato ma c'è una goccia. Scusi. Ma qua ci sta, pulisci la mela. A me che prende qua. Vabbè, ma a me mi ha preso un occhio, scusi. Come si dice, come dice il detto, l'Epifania tutte le feste si porta via, ma a proposito di feste sarà capitato anche a voi, perché il periodo è un po' quello che è, di passare questi giorni un po' raffreddati, magari con gli occhi lucidi, occhi che luccicano e il naso che cola, ma l'inverno è ancora lungo e non possiamo farci trovare senza forze proprio adesso che dobbiamo ripartire. Da domani il ritmo riprende appunto spedito. Dottor Luca Avoledo, buongiorno intanto e buona Epifania dalla Befana che conduce oggi Cuore e Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno ascoltatore di Cuore e Denari. Ben ritrovato. Ieri già da una sua collega nutrizionista mi sono fatta dare 2 o 3 suggerimenti per la gola con modalità grattugia. In questi giorni mi ha suggerito una tisana allo zenzero, può essere una buona idea? Ottimo, lo zenzero. Perfetto. Allora, picco di influenze e naturalmente parleremo dell'importanza dei rimedi anche fai da te per scampare ai mali di stagione, per chi magari ha quel male essere che non è proprio conclamato in influenza e quindi magari prima di passare direttamente al medicinale vuole un po' fare per conto proprio. Allora intanto raccontateci quali rimedi fai da te usate per sfuggire o aggredire, affrontare, prevenire i sintomi influenzali che in questo periodo sono all'ordine del giorno. 800 24 00 24 per raccontarcelo in diretta. Vorrei rifare un po' di numeri come quelli che abbiamo raccontato ad inizio trasmissione. Allora intanto abbiamo capito che il picco influenzale deve ancora arrivare ed è atteso da domani in avanti. Durante le feste di Natale e Capodanno 450.000 italiani sono rimasti a letto, erano 148.000 durante l'ultima settimana dell'anno e nel corso delle vacanze si sono ammalati 100.000 bambini sotto i 5 anni, come sempre capita durante le feste, così per mettere un po' di malumore i genitori. Questo è l'ultimo report di Influnet, che è la rete di sorveglianza della sindrome influenzale coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Dottora Avoledo, andiamo subito alle avvisaglie più frequenti che ci colpiscono quando l'influenza è alle porte: pizzicorio di gola, naso che prude, mal di schiena e la sensazione di avere le ossa tutte rotte. Quali sono i toccasana che lei consiglierebbe per non cadere nel letto con la coperta tirata su fino al mento? Beh, ce ne sono, per fortuna abbiamo, prima che arrivi appunto il picco, comincerà nei prossimi giorni e sarà proprio al massimo a fine di gennaio, abbiamo ancora un po' di settimane per sostenere le nostre difese immunitarie. A parte che quando ci si ammala sarebbe bene restare a riposo al caldo e questa è la cura migliore, darei una terna di rimedi naturali per chi sente che sta covando qualcosa, anche in una situazione un po' più avanzata. Per esempio sentivo lì un po' di appunto, mal di gola e grattugia, oltre allo zenzero che va benissimo. Uno dei miei rimedi preferiti è l'olio essenziale di melaleuca alternifolia, il tea tree oil, che ha proprietà antisettiche, antibatteriche, è una sorta di antibiotico naturale. Si possono fare dei gargarismi con alcune gocce, 5 gocce in un po' di acqua, e questo è utile soprattutto ai primi sintomi per allontanare il mal di gola, disinfettare la gola. Ce ne deve ribadire il nome però, perché è un po' complicato, quindi almeno sì. Olio essenziale di albero del tè, con il tè non c'entra nulla, e il nome latino è melaleuca alternifoglia, si chiama anche olio essenziale di melaleuca. Melaleuca, perfetto. Sentivo parlavate anche dell'echinacea. Eh sì, prima abbiamo sentito che Meg Ryan in C'è posta per te la usava per combattere il suo terribile raffreddore mal di gola. È uno dei rimedi naturali fitoterapici più noti per le difese, per combattere i virus influenzali e del raffreddore. Funziona davvero, funziona molto bene a disturbi proprio già in corso, quindi quando si comincia a sentire che c'è qualcosa che non va, e ha una efficacia dimostrata nel ridurre l'incidenza la severità e la durata dell'influenza del raffreddore. Va bene la capsulina, lì dottor Avoledo, c'è anche un'altra modalità per assumerla? Le modalità delle piante sono sempre diverse, dalle tisane alle capsule, ai succhi. Le capsule hanno il vantaggio che spesso contengono i principi attivi concentrati, quindi sono formulazioni un po' più efficaci. Io, in linea di massima, quando c'è la donazione da ricercare un pochino forte, preferisco le capsule e le tavolette. E una terza pianta molto interessante, questa poco nota ma molto interessante, è la Andrographis, una pianta che non ha nemmeno un nome italiano, si chiama Andrographis paniculata, è una pianta originaria dell'India, utilizzata da secoli, da millenni nella medicina ayurvedica, e riduce, oltre che la durata del raffreddore, abbassa anche la febbre, quindi è molto interessante. Benissimo, quindi questa terna dei rimedi, come ce l'ha definita il dottor Avoledo, visto che per un paio di casi hanno dei nomi anche abbastanza complessi, adesso vi metteremo tutti i suggerimenti e tutti i dettagli sulla nostra pagina Facebook, naturalmente sulla pagina Facebook di Cuore e Denari. Prima di andare alle ossa rotte, a questo senso anche un po' di pesantezza che ci trasciniamo dopo le feste, dottor Avoledo, subito alcune osservazioni di alcuni ascoltatori che in tanti stanno già chiamando all'800 24 00 24. Sentiamo Francesca da Firenze, quali sono i rimedi che adotta quando bussa la porta l'influenza. Francesca, benvenuta. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io non, il mio rimedio non lo uso quando bussa la porta, ma lo comincio un po' prima, perché anni fa mi hanno consigliato di fare una cura in autunno utilizzando i granuli del kefir. È una specie di yogurt, viene un yogurt con un gusto che a me piace molto, e volevo sapere, siccome da quando ho iniziato ad usarlo miracolosamente non mi è più venuto niente, se era solo una suggestione oppure certo, se effettivamente fa bene. Sarà l'effetto placebo, sarà l'effetto reale. Francesca, di fatto su di lei è efficace. C'è anche la bevanda al latte al kefir, dottor Avoledo. Sì, il kefir è proprio una bevanda ricca di probiotici, questo di fermentati, che deriva dalla fermentazione del latte, e non è per niente un effetto placebo. Si sa che i probiotici, i fermenti lattici, quelli venduti anche in capsule, hanno un'efficacia dimostrata nel aumentare le difese immunitarie, perché nell'intestino è presente parte del sistema immunitario, e quindi la colonizzazione di batteri buoni può contrastare l'insediamento di batteri cattivi, di virus e patogeni vari. Quindi benissimo il kefir. Guardi, non le dico in quanti ci stanno scrivendo. Allora, il propoli, un classico. Propoli perfetto per il mal di gola, prodotto dalle api, disinfettante per la gola e per le vie respiratorie. Promosso. Quindi Silvia, promossa al 349-238-6666. Ah, ecco, questa pure l'avevo già risentita, probabilmente in una trasmissione con Nicoletta. Ce la racconta Marta. L'impasto della curcuma, un cucchiaio con il miele. Funziona per la sindrome influenzale, dottor Avoledo? Funziona, secondo me c'è di meglio. La curcuma è una spezia orientale meravigliosa, ne sta scoprendo di ogni, aiuta persino a rallentare, a prevenire alcune malattie degenerative. Il miele è un toccasana, non mi aspetto di risolvere in maniera decisa solo con curcuma e miele, ma sicuramente può essere un buon ausilio. Male non ci fa. Lorenzo da Trento, buongiorno, ecco qua andiamo un po' più sull'esotico adesso. Lorenzo, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno al professore. Io volevo chiedere un consiglio, sto prendendo da tempo la spirulina e anche l'ericium, che sono questi famosi funghi che hanno queste proprietà molto, molto terapeutiche. Come li assume questi? Sono funghi giapponesi, so che lei ha anticipato. Col mio erborista mi ha consigliato appunto il fungo con la vitamina C per chiaramente potenziare il loro effetto. E, non so, chiedevo un consiglio, vedo che sto bene. Certo. Io non sono mai ammalato, però volevo capire se è un discorso solamente commerciale o anche... Grazie Lorenzo, grazie mille. Dottora Avoledo, allora ci decripti, esatto. La spirulina non è un fungo, è un'alga unicellulare piccolissima, della forma diciamo allungata, è molto ricca di nutrienti come minerali, vitamine e proteine, e quindi può essere utile come una sorta di integrazione multivitaminica multiminerale. L'altro prodotto, molto poco noto, mi fa piacere che comincino a essere un po', come dire, divulgati questi nomi, è l'ericium, è un fungo orientale, si chiama fungo testa di leone, che come tanti funghi orientali ha una capacità di stimolare le difese immunitarie, quindi senz'altro una buona idea. Ne esistono altri di funghi forse un pochino più indicati contro l'influenza, come anche un pochino più noti, lo shiitake, il maitake, che hanno nomi giapponesi, e il reishi. tutti funghi immunostimolari. Mi incuriosisce molto la modalità di assunzione del fungo, tra virgolette, compresse. Che cosa sono, dottor Avoledo? Solito sono venduti in polveri. Ah, ecco, polveri. Compresse, ma alcuni di questi, come lo shiitake e il maitake, sono molto consumati, per esempio in Giappone, all'interno di zuppe medicate. E ah, nei negozi biologici, per esempio, si trovano secchi e possono essere utilizzati per zuppe o altre preparazioni. Come la curcuma, insomma, che pure mettiamo nella zuppina, nella minestra. Poi le leggo il simpaticissimo messaggio di Daniela con il marito che fa il raccoglitore di pigne, poi le leggo appunto che cosa combinano e cosa hanno studiato come rimedio naturale, però vorrei commentare con lei un po' quello che è anche il senso di pesantezza, che è il filo rosso un po' di tutte le feste, pesantezza che arriva anche dal ovviamente alimentarsi un po' più del solito in questi giorni. Dobbiamo rimetterci in forma una volta che si torna in pista, a me è capitato già dal 2 gennaio, ma dobbiamo allontanare quel senso di spossatezza, pienezza che ci accompagna in tutti i cenoni con amici e parenti. Adesso chiaramente i miracoli non possiamo farne, non abbiamo nemmeno di rimedi naturali che possono fare, ma qualcosa che può aiutare bene c'è, dottor Avoledo. Sì, cioè, io dopo le vacanze natalizie suggerisco 15 giorni detox, cioè 2 settimane di alimentazione ipotossica. Mm-hmm. Adesso nel prossimi giorni pubblicherò anche sul mio blog un articolo che spiega bene come fare, ma agli ascoltatori di Cuore Denari voglio dire almeno 4-5 cose molto importanti che possono fare per una quindicina di giorni per contrastare magari pancia gonfia, ritenzione, chili acquistati, digestione difficile dopo le vacanze natalizie. Mm. 15 giorni ci vogliono quindi di detox, dottore Avoledo, anche perché, guardi, io per esempio non ho esagerato, sono stata abbastanza virtuosa in queste festività, proprio perché intanto non siamo più abituati come negli anni passati ad esagerare, per cui magari ecco l'esagerazione la si concentra il giorno di Natale, la sera di Capodanno, però devo dire che ho avuto un comportamento abbastanza virtuoso, però anche per quello che si è strafatto in 2 o 3 giorni occorrono 15 giorni, lei dice, per rimettere un po' in pista il corpo, no, un po' meno. No. Chiaramente no, sto pensando a chi magari dal 22 al 6 è stato un tour de force armeggiato con panettoni eccetera, se no non è neanche necessario, magari neanche un giorno. Mm-hmm. Possono fare una settimana, 10 giorni, 15 giorni di un programma depurativo, direi 3-4 cose: l'eliminazione di alcuni cibi che mangiamo troppo spesso, come gli affettati e gli insaccati di ogni tipo. Chiaro, via. Fuori via salumi e mortadelle e quant'altro. Sostituiamoli magari con della carne o del pesce. Mm-hmm. Via tutti i prodotti da forno, questo per gli italiani può essere una cosa delicata, ma pane, pizza, biscotti, fette biscottate, piadine, merendine, cracker, grissini, molto ricchi di sale, di lieviti, eccetera, eccetera. Via, utilizzate magari le gallette di riso, le cracotte, le gallette di mais. Di mais e di quinoa, ce ne sono ormai di tutti. Sono tanti, bravissima. Sono diventato un esperto. Latticini per una quindicina di giorni, quindi formaggi, latte, yogurt, tutte sostanze che in qualche modo mangiamo anche molto spesso e possiamo sostituirli con, senza morire di fame, del latte vegetale, quindi latte di soia, latte di riso, eccetera, eccetera. Quarta cosa, non dimenticate di bere tantissimo, esatto. Una delle cose che ha l'efficacia depurativa più alta, quindi 2 litri d'acqua come minimo. E toglierei di mezzo anche per una quindicina di giorni, 10 giorni, tutti i dolci, compreso lo zucchero, anche quello di canna, utilizzato per il caffè. Chiarissimo. Allora andiamo a Maurizio d'Agrigento, che ha il figlio che ha questo raffreddore che proprio non riesce a debellare in nessun modo, nonostante insomma viva in località dove non c'è il maltempo, dove il freddo non è così impietoso come in tante località del nord. Maurizio, benvenuto. Salve, salve, io infatti chiamavo per questo motivo, perché sì, comunque devo dire che è vero che ad Agrigento la temperatura è sempre sul mite, anche se devo dire che chissà dopo quanti decenni abbiamo visto per 2 o 3 giorni la neve anche qui ad Agrigento. Ah, ecco qua, sarà per quello che è venuto a raffreddore a suo figlio. Ma il problema è, appunto, dicevo che devo dire che è sorto un po' prima questo raffreddore, quindi non penso che ci possa essere questa componente. Però effettivamente mi stranizzava il fatto che ci sia stato questo raffreddore. Mio figlio, devo dire, non è un gran rombustone, però questo raffreddore che lo sta quasi un po' più debilitando, perché non riusciamo a farlo, diciamo, a farlo andare via, nonostante, vabbè, le certo. solite cure magari palliative come le aspirine e qualche cosa del genere. Insomma, bisogna capire l'unica cosa se... che volevo dire, per puntualizzare, anche per non generalizzare il fatto, devo dire, non so se questa cosa può entrarci, però mio figlio è stato, diciamo, da ragazzino è stato splenectomizzato, cioè dire, gli è stata tolta la milza per un incidente che ha avuto, diciamo, adesso non sappiamo se c'è una relazione, Maurizio, però grazie per l'informazione, magari a dottor Avoledo può essere utile. Là, il caso di Maurizio, dottor Avoledo, ci dà sicuramente un assist molto buono per cercare di fare un punto della situazione sul nostro sistema immunitario, no? Forse nel caso del figlio di Maurizio è particolarmente debilitato, quindi va rafforzato, non lo so, adesso è un'idea che mi sono fatta io, ma magari anche in tutte quelle persone che si trovano in queste condizioni, che hanno il raffreddore perenne per tutta la stagione invernale, forse è un problema di sistema immunitario che ha bisogno di un supporto. Può essere, sicuramente al figlio di Maurizio consiglierei comunque, o a Maurizio, di portare il figlio dal dottore a vedere appunto cosa succede, al di là dei rimedi palliativi, perché appunto quando un malanno non si risolve da solo, non si risolve in tempi ragionevoli, è sempre bene portarlo all'attenzione del medico curante. Mm-hmm. Nel caso della splenectomia, cioè dell'asportazione della milza ha un ruolo immunitario, quindi è giusta la considerazione mm-hmm. che veniva fatta dal nostro ascoltatore. E in termini più generali, al di là del caso di Maurizio, comunque è vero che spesso le difese immunitarie sono poco allenate e questo ci fa magari trascinare per lunghe settimane o mesi malattie come raffreddori, mal di gola, tosse, eccetera, eccetera. Quindi sostenere il sistema immunitario senz'altro ha un'importanza capitale. Cosa gli possiamo allora dire di fare? Che cosa gli possiamo suggerire di fare in questo caso in cui c'è questo raffreddore da 15 giorni che lo sta letteralmente mettendo in ginocchio, poverino? In questo caso, come dicevo, in un caso particolare come questo, di fare a parte il medico, certo, rimedio naturale, allora incrementiamo le spremute d'arancia? Le spremute d'arancia vanno senz'altro bene, magari appunto per chi ancora non ha una situazione di questo tipo, a colazione la classica spremuta senz'altro è un modo di fare pieno di vitamina C, una sostanza utile per le difese immunitarie e per difenderci da virus e batteri e altri agenti patogeni. Per chi è già passato, dottor Avoledo, alla cura antibiotica in questi giorni, perché magari l'influenza è stata particolarmente violenta, il medico ha fatto questa richiesta per il paziente, possiamo adottare qualche abitudine alimentare, magari implementarla in questo periodo, perché per molte persone veramente l'antibiotico è una tragedia, è molto debilitante. Sì, è vero, gli antibiotici possono debilitare soprattutto a livello intestinale. Io in presenza di, quando si assumono antibiotici, suggerisco sempre di fare il pieno di probiotici invece che antibiotici, quelli di cui parlavamo in maniera prima in diretta con il kefir, quindi capsule o bustine contenente bifidobatteri e lattobacilli, cioè batteri buoni che vanno a colonizzare l'intestino, perché l'antibiotico elimina i patogeni, ma elimina anche la flora batterica intestinale simbiotica, esatto. Quella che, come dire, sta insieme a noi nel nostro intestino a, come dire, ad aiutarci a sostenere le nostre difese. I probiotici in qualche modo vanno a mitigare i danni degli antibiotici, quindi senz'altro un'accortezza che farai è quella di assumere probiotici insieme agli antibiotici. Mm-hmm. Senta, dottor Avoledo, nella dieta detox di cui lei ci ha dato qualche anticipazione prima, contempla anche nel corso di tutta la giornata uno spuntino di metà mattina, uno spuntino di pomeriggio, che naturalmente non dovranno più avere come protagoniste fette di panettone, ma qualche spezza fame che possono aiutare anche a sostenere un po' meglio la detox? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Uno dei primi ingredienti per gli spuntini è la frutta secca. La frutta secca, non la frutta disidratata, la frutta in guscio, dico. Perché? Perché contiene molti minerali utili, tra cui per le nostre difese lo zinco e il selenio, in particolare le noci del Brasile sono molto ricche di selenio, e zinco e selenio sono minerali fondamentali per la corretta funzionalità del sistema immunitario. Chiarissimo. Allora, ecco qua, dovevo leggere la mail, anzi l'SMS di Daniela. Rimedio naturale. Intanto io ho proprio bisogno dell'echinacea, perché devo arrivare ancora alle 12.30, speriamo di farcela, perché qua la gola mi sta mollando. Pigne ancora chiuse del pino mugo, raccolte in quota a fine luglio. Messe con zucchero per 40 giorni al sole, si filtra tutto questo composto, si crea uno sciroppo che è resinoso e profumato, si conserva con aggiunta di pochissimo alcol a 90 gradi, ottimo per la gola e per il malessere. Dottora Avoledo, questa l'aveva mai sentita? Sì, perché non tanto questa preparazione, ma il pino mugo in particolare, l'olio essenziale, è un formidabile espettorante, disinfettante, aiuta tantissimo in queste circostanze, quindi ha un effetto balsamico e calmante delle vie respiratorie. Bravissimi i nostri ascoltatori. Incredibile, insomma, io pensavo di coglierla in castagna, invece non ci sono riuscita, ma in realtà ho fatto questa battuta perché voglio sapere se lei le castagne le promuove o meno. Le castagne, sì, senz'altro sono un'ottima fonte di amidi. Mi piacciono molto. Non esageriamo anche lì, perché mi sa che come calorie non siamo messi male. Al posto della pasta, non in aggiunta. Quindi ecco. Quando si mangia le castagne fa già, come dire, piatto ricco. Certo. Anna Maria da Matera, benvenuta. Buongiorno. E buon anno, naturalmente. Grazie anche a voi. Ci dica tutto. È una patita di erbe, lei, leggo. Io sono una patita, sì, più che di erbe, di infusi, di spezie. Tisane. Ecco. Ecco qua, spezie. Sono... prenderei ogni giorno lo zenzero, la curcuma, però siccome ho un problema che riguarda la pelle, o penso che riguardi la pelle, l'orticaria, che curo con gli antistaminici, e sono a posto, insomma, tutto a posto, non ho più quei ponfi che vengono fuori quando c'è la crisi, però ogni volta che prendo o l'infuso o la tisana di zenzero, eccetera, dopo qualche giorno mi ritornano questi ponfetti. E quindi non vorrei mai, lei dice, insomma, che si fosse creata una relazione. Appunto, se queste droghe, queste non so come chiamarle, sono controindicate per questo tipo di patologia che ho io. Grazie Anna Maria, sentiamo poi il dottor Avoledo. Dottor Avoledo, allora c'è chi le promuoviamo molto, no? Queste, le spezie, le erbe, però è possibile che Anna Maria abbia sviluppato addirittura una reazione allergica in sostanza? L'orticaria è una manifestazione allergica e in molti casi alcune spezie possono dare fastidio, quindi senz'altro questa considerazione che fa la nostra ascoltatrice, in cui nota che certe spezie, anche benefiche per carità, nel suo caso possono esasperare la sensibilità allergica, sarebbe bene non abusarne e magari provare ad assumerne un pochino meno e vedere. Esatto, anche perché se poi ha proprio stabilito una relazione diretta è evidente che è possibile che possano essere proprio loro a provocare questo problema alla pelle. Senta, dottora Avoledo, lei se lo ricorderà, tutte le volte che con Nicoletta Carbone facciamo la trasmissione con lei, con i suoi colleghi, e diamo questo suggerimento, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, tutti gli ascoltatori chiedono, sì vabbè, ma quanto ci va all'interno di una porzione? Oggi la domanda che arriva è un pochino diversa, ma più o meno allo stesso tenore. Allora, quando parliamo di una spremuta di arance, quante arance dobbiamo spremere, ci chiede un ascoltatore? Beh, io direi che facciamoci anche un pochino guidare dal buonsenso, non è che ce ne possiamo bere 5 litri. Io non veramente una cosa che non mi piace è complicare le cose semplici. Ecco. Quindi fatevi un bicchiere di spremuta d'arancia e fine. Un bicchiere di spremuta d'arancia, poi valutate voi. Quindi ne servono 3, in alcuni casi una bella arancia succosa ne basta una. Fate una bella frutta d'arancia, consumatela, come diceva la nonna, subito, perché l'ossigeno, il calore e persino la luce degradano la vitamina C. E magari alterniamolo anche con qualche kiwi, un altro frutto molto ricco di vitamina C e ben presente in questa stagione. Stiamo andando verso la chiusura, abbiamo ancora un minutino abbondante, dottora Avoledo, con lei chiudiamo in bellezza, chiudendo idealmente la nostra giornata, dopo aver naturalmente rispettato molto scrupolosamente tutti i suggerimenti detox che lei ci ha dato. Ammettiamo appunto di voler conciliare il sonno con una bella tisana, magari con lo zenzero, intanto perché metta un pochino a riposo anche la voce e la gola, ma proprio quella che concilia il sonno. Io per esempio qualche sera fa temo di aver fatto una sciocchezza, di prendere del tè verde sera tardi. Ho fatto bene o ho fatto male? Il tè verde non è così eccitante come il tè nero, però in alcuni casi appunto non lo prenderei proprio prima di andare a dormire. Ecco, infatti ho fatto questa sciocchezza. Quale tisana ci suggerisce per stare bene e avere un sonno riposato? In questo momento io suggerirei una tisana che ci consenta di prendere i classici due piccioni con una fava. Sì. Visto che appunto c'è l'influenza in giro, la tosse e il catarro, una tisana di fiore di lavanda, fiore di timo e foglie di eucalipto, che contengono sostanze che fluidificano, migliorano la respirazione, e la lavanda ha anche un effetto sedativo e quindi che aiuta e facilita il sonno. E tutti insieme possiamo trovare delle tisane, cioè praticamente questo composto dobbiamo farlo da soli, dottora Avoledo. All'erborista, la tisana anapartis, come dicono quelli che parlano bene, cioè in parti uguali, di foglie di eucalipto, fiori di lavanda e fiori di timo, e si prepara con un cucchiaino abbondante di questa miscela, un cucchiaio anzi da cucina possiamo fare, e si beve questa tisana, diciamo, due o tre volte al giorno, anche durante la giornata, se si ha necessità, per esempio, di migliorare non solo il sonno, ma anche l'aspetto respiratorio, diciamo così. Allora, dalla regia mi stanno chiedendo di fare qualche minuto di straordinario. Dottora Voledo, le faccio sentire la considerazione di Alberto da Roma, per poi andare ai saluti. Alberto, benvenuto. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, io volevo parlare del raffreddore. Io ho 65 anni e purtroppo soffro abbastanza spesso di questa patologia. Ovviamente ho utilizzato tutti quanti i metodi, l'aspirina, eccetera. Ma adesso volevo anche chiedere al professore un suo parere. Dunque, per me il raffreddore è il veicolo per il successivo mal di gola e poi la tosse. Allora, il suggerimento che io, il metodo che adottate è questo: secondo alcune ricerche che ho letto un tempo fa, la temperatura di 43 gradi, l'acqua a temperatura 43 gradi messa nelle vie respiratorie, nel naso, dovrebbe aiutare questo ho letto, a ridurre l'infezione a batteri nel naso. Allora io ho provato a fare questa cosa, cioè uso una siringa da 5 mm e immetto dell'acqua tiepida su 36-38 gradi nel naso alternativamente per 3 o 4 minuti e devo dire che da un paio d'anni riesco va un po' meglio ad arginare questo terribile raffreddore che l'attanaglia. Alberto, grazie, vado verso la chiusura con Luca Avoledo. A parte i rimedi naturali di cui abbiamo parlato per gran parte della trasmissione, questo è proprio il rimedio della mamma, direi, dottor Avoledo, il lavaggio nasale, come dire, la prima arma per combattere qualunque raffreddore, quello dei bambini in particolar modo. Sì, funziona molto bene, e oltre all'acqua calda si può aggiungere per esempio anche del sale e del bicarbonato di sodio, quindi una puntina di cucchiaino che hanno un'azione appunto anche disinfettante molto interessante, che decongestiona le vie. Devo dire che Alberto l'aveva messo appunto nell'anticipazione della domanda alle nostre ragazze del centralino: usa acqua salata, aggiungiamo anche una puntina di bicarbonato. Penso di aver detto tutto, dottora Voledo, naturalmente speriamo di trascorrere insieme a lei questo 2015 in piena salute con tutti i suoi rimedi. Auguriamoci. Grazie molte, ci mandi la dieta detox, che la pubblichiamo al più presto anche noi su Facebook, non appena naturalmente lei l'ha pubblicata sul suo blog. Intanto buon anno e a presto. Grazie a molte. Voi, grazie, arrivederci. Grazie a Marco Lombardo, a Isotta Scenna per la collaborazione in redazione, Carmelo Lauricella in assistenza tecnica. Noi torniamo domani con Nicoletta Carbone a Cuore Denari. A tutti buona giornata.